incontro organizzato dall'associazione Mille Idee si parlerà di adolescenti, del loro rapporto con scuola, famiglia e con le nuove tecnologie, e per farlo annunciare appunto anche l'incontro di stasera ci sono con noi tre persone. Cominciamo a presentarle. Innanzitutto il professor Matteo Lancini, che è qui alla mia sinistra. Buongiorno professore, grazie di essere qui. Buongiorno a tutti. E Giuseppe Virdis, che è un membro, uno dei fondatori dell'associazione Mille Idee. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. E Luca Sida, che fa parte di questa associazione Mille Idee. Buongiorno Luca, grazie. Buongiorno. Allora, innanzitutto direi di sapere dai fondatori, mi rivolgo in particolare a Giuseppe, perché è nata questa associazione Mille Idee allo Zorai e cosa si propone. È già molto attiva, mi risulta, vero Giuseppe? È molto attiva, è neonata, però di fatto come progetto è piuttosto antico, è nato tra... Da varie chiacchierate tra noi della generazione di mezzo, io e Luca Sida per esempio, ma anche con molti giovani, si pensava insomma che un'associazione culturale potesse essere molto funzionale al nostro paese e non solo. In un'epoca in cui assistiamo a una gerontocrazia imperante, in cui i giovani sono tagliati fuori da tutti i posti cardine nella politica e non solo, abbiamo pensato che creare un'associazione culturale che potesse in qualche modo andare in una direzione diversa rispetto a quella alla quale assistiamo potesse essere molto utile. E volevamo andare contro l'idea dei bamboccioni, no? Questa diffusa opinione sui di giovani cui, di oggi. Io faccio parte, come dico spesso. ecco, questa cosa dei bamboccioni non ci è mai piaciuta e pensavamo che i giovani invece fossero delle risorse, che avessero delle capacità eccetera, e infatti in un mese l'associazione Mille Idee ha organizzato più eventi culturali di quanti forse il nostro paese, lo Zorai, ne abbia mai conosciuti, e quindi questi bamboccioni così incapaci non sono, e ci stiamo muovendo in questa direzione di fare cultura, di fare anche politica con la P maiuscola, nel senso che per esempio tra le varie attività che stiamo organizzando ci sono questi incontri con i sindaci, con sindaci che si sono particolarmente distinti a modo di vedere dei soci dell'associazione e che fanno formazione su come si amministra un comune, perché la nostra idea è che i posti, la guida del timone debba passare ai giovani prima o poi, non possiamo andare avanti, noi non ce l'abbiamo con nessuno, non vogliamo fare polemiche sterili eccetera, però è ora che i giovani si prendano le responsabilità perché sono capaci. Oggi in paese abbiamo tanti laureati per esempio, abbiamo tante competenze che possono risultare poi fertili ed è bene che si cominci insomma a utilizzarle veramente. Mille Idee è un esempio di tutte queste cose, perché sta funzionando bene, diciamo la verità, possiamo per esempio vantarci di aver organizzato un convegno come quello di oggi dove si parlerà dei giovani, dove si parlerà delle problematiche legate ai giovani, ai giovani della nuova generazione che non sono peggiori di quelli di una volta come tanti ancora pensano, dicono, cosa che si dice dalla notte dei tempi, no? Non ci sono più i giovani di una volta, non è così, sono diversi, bisogna capire perché sono diversi, Matteo Lancini oggi ci può aiutare a capire perché sono diversi. E allora, visto che l'hai citato, poi ti stimolerò su un'altra cosa, a proposito di politica con la P maiuscola o minuscola, anzi te lo dico subito, tu stesso dicesti in un incontro di politica, dove si parlava di politica, che i giovani sono attivissimi, se stimolati appunto nelle iniziative culturali, e però hanno un po' di disistima verso la politica, quella vera, cioè non hanno tanta voglia di impegnarsi in politica, forse non si fidano più dei partiti, non lo sappiamo, però hanno voglia di impegnarsi, quindi c'è anche questo problema forse da risolvere per questo cambio generazionale che tu chiedevi, che tu auspicavi. Sì, premetto che io sono solo uno dei tanti soci dell'associazione, oggi per vari motivi di urgenza eccetera non sono potuti essere qui la presidente Erika Salerno, il segretario Marco Canzilla o altri che hanno un ruolo più importante di quello mio e di Luca Sida. In ogni caso io penso che uno dei motivi per il quale ha funzionato bene Mille Idee è che non c'erano etichette di partito eccetera, perché in questo momento in effetti l'idea del partito forse per colpa anche dei partiti, in qualche modo così crea un'ostilità immediata a livello psicologico. Tuttavia, nell'intendimento di molti dell'associazione c'è l'idea che invece la politica debba tornare a essere un riferimento per i giovani. È il caso che i partiti tengano presenti questa situazione, è il caso che i giovani inizino a occupare i partiti, insomma, per un cambio generazionale di cui si sente tantissimo l'esigenza. Professor Lancini, innanzitutto una breve scheda, no? Non leggo tutte le sue qualifiche, le pubblicazioni, però è giusto ricordare che lei è psicologo, psicoterapeuta, insegna presso la facoltà di psicologia dell'Università Milano Bicocca, tra le tante altre cose. Di cosa si parlerà stasera? Questi adolescenti di oggi come sono diversi? Diceva Giuseppe, non ci sono più giovani di una volta, diciamo che anagraficamente è normale che sia così, ma gli adolescenti di oggi in cosa si differenziano, se si differenziano da quelli, per dire, di 20 o 30 anni fa? Sì, già dal titolo cercheremo un po' di affrontare insieme, partire un po' dai dati di ricerca, le caratteristiche degli adolescenti odierni. Adolescenti definiti nativi digitali, cioè nati dentro la tecnologia e non immigrati digitali come noi che siamo cresciuti dentro un'epoca tutta diversa. E quindi cercheremo di capire che influenza ha il nascere appunto dentro questo mondo tecnologico. Sappiamo benissimo che la televisione ha cambiato la nostra vita, tutti dicono che internet è una rivoluzione ancora forse più forte di quella che è costituita dalla televisione. È ovvio che i genitori avvicinano queste risorse ai figli perché ritengono siano utili per la crescita e dopo però si trovano anche preoccupati di gestirle dal punto di vista educativo. Questa è una delle grandi novità. L'altra novità molto forte, secondo i dati, è ovviamente il cambiamento del modello educativo familiare, che è passato da una famiglia cosiddetta tradizionale, normativa, a una famiglia più relazionale, affettiva, e questo ha delle ricadute importanti sul modo di intendere proprio la crescita degli adolescenti, sul modo di relazionarsi agli adulti e anche quindi di intendere il processo di apprendimento, la relazione con i docenti e la scuola. Prima a microfoni spenti si parlava anche con Carla, che salutiamo in regia, di un nuovo fenomeno chiamato adulterismo, cioè una sorta di egocentrismo degli adulti che pensano più a se stessi che ai figli. Lei l'ha riscontrato questo nel rapporto figli e genitori e soprattutto in che modo queste nuove tecnologie influenzano il comportamento degli adolescenti, perché di loro stiamo parlando, proprio nei confronti dei genitori e della scuola, anche nei confronti anche dei professori, per esempio? Io credo che i genitori, semmai negli ultimi anni, siano molto più attenti a crescere i figli. Di solito si fanno meno figli, questi sono i dati nazionali, poi bisogna vedere nelle realtà locali, e quindi semmai possiamo dire che è una società dove è venuto un po' meno l'idea di una comunità educante, dei valori condivisi. Ogni famiglia cresce i figli dentro un suo microcosmo, una sorta di familismo morale, no? Noi chiamiamo, che definisce proprio quel micronucleo familiare. Quindi non penso che i genitori non siano attenti ai figli, anzi probabilmente si è molto più attenti che in passato. Penso che però è cambiato un po' il concetto di etica, ci sia molto più paura di quello che accade fuori, perché c'è come l'idea che non ci sia una comunità educante e via dicendo. Questo è uno ad esempio dei cambiamenti che portano poi ad esempio a dover gestire con una certa difficoltà il gruppo classe, perché una volta arrivavano ragazzi, come dire, più regolati, infatti, no? Vengono chiamati ragazzi sregolati, molto esibitivi, molto espressivi, più difficili da gestire, ma è cambiata in generale la relazione con l'adulto che cresce in una famiglia più portata a sostenere i figli, a provare a essere quello che sono e non a sottomettersi al volere degli adulti. Pensavo prima che a proposito di immigrati tecnologici, mi è venuta una battuta, la faccio adesso prima di passare invece che sono un immigrato tecnologico senza permesso di soggiorno, nel senso che devo lavorare in camera mia. Vabbè, questa era una battutaccia proprio di basso profilo. Luca, ti chiamo in causa perché tu sei conosciutissimo, così come Giuseppe, insomma, non vi occupate solo di sociale, venite dal mondo del calcio, probabilmente lo sport è anche formativo da questo punto di vista, anzi senza probabilmente, forma le persone che lo praticano e continuano a praticarlo anche in questa chiave. Giuseppe è stato calciatore, giusto? Sì. Sei un valente allenatore, Luca è stato un ottimo calciatore e adesso è anche un ottimo editore che si occupa proprio di pubblicazioni legate soprattutto allo sport, come Oglia Stars, ne cito una che qui in Oliastra è molto conosciuta. Luca, tu sei entrato in questa associazione, immagino con lo stesso spirito e gli stessi motivi che hanno convinto gli altri, tra cui Giuseppe. Quali saranno le prossime iniziative della vostra associazione? Tra l'altro, da poco, così lo citiamo, anche mi fa piacere citarlo, avete presentato anche il libro di Maurizio Lepori, un altro innamorato del pallone, esatto, che si intitola Noia al motore, un bel libro che ho avuto il piacere di leggere, e questa è stata una delle ultime, forse la penultima prima di quella di stasera. E quali saranno quelle future invece? Esatto, perché dopo quella di Maurizio abbiamo praticamente presentato il sindaco di Ascolcas, che è stato un attimo un lato, esatto, che è il più giovane sindaco pare della Sardegna, quanto pare anche italiano, questo ancora per una 25 anni è venuto qui, si è messo a nostra disposizione, le domande sono state tante, quindi è stata una bella esperienza, soprattutto anche per lui, a quanto dice lui, perché siamo rimasti in contatto e alla faccia dei bamboccioni, sì, sì, no, è stato molto molto piacevole questo incontro. Cosa avete in pentola? Cosa bolle? Subito dopo l'intervento di Lancini, che di questo sabato avremo praticamente il 27, leggo perché non ricordo la data, il 26 dicembre, che avremo un convegno sulle rinnovabili. Quindi il giorno di Santo Stefano. Esatto, sì. Utilizziamo questa data perché solo questa data è possibile, diciamo così, che lui venga a darci ci ha dato la sua disponibilità per questa data. Recentemente, lui chi, scusa? 18, sì. Hai detto lui venga chi? È un docente del Politecnico di Torino, il professore del Politecnico di Torino, che abbiamo contattato, esperto in energie rinnovabili, sia anche su tecniche costruttive, diciamo così. Io ci avrei abbinato anche uno spazio sul riciclaggio dei rifiuti, visto che a Santo Stefano ci sarà la carta dei regali da buttare. Può essere un'ottima idea. Sì, magari ci facciamo un giro così, sì, non sarebbe male. Prima del 27 e il 18 abbiamo un incontro sulla storia dello Zorai, dove presenteremo il libro di Luca Porru, che parla appunto della storia dello Zorai, nel quale speriamo anche di invitare delle persone rappresentative, diciamo così, del paese dello Zorai. Invece, scusami, no. Poi ce ne sono tante altre, soprattutto in programma a gennaio, dove avremo mercoledì un'iniziativa per i bambini. Sì, quella stiamo aspettando, diciamo così, definitiva da parte dell'amministrazione, che ci dia praticamente la possibilità di allestire in piazza l'albero di Natale. Per mercoledì 8, per mercoledì, il giorno dell'Immacolata. Dicembre, okay. Esattamente. Quindi manifestazione per bambini con l'albero di Natale. Insomma, facciamo qualcosa di aggregativo, perché la nostra associazione vuole anche essere aggregativa, non solamente fare cultura, ma anche aggregazione, insomma, spirito. Sì. Prego, sì. Volevo aggiungere, prima ho dimenticato di dire che tra le attività che abbiamo iniziato c'è stato un matrimonio tra l'associazione Mille Idee e l'associazione UTA e UTE Ogliastra, l'università della terza età, per cui sono stati attivati una serie di corsi rivolti a tutte le fasce di età, in realtà, di tecniche della comunicazione, di storia di Lozzorai, un corso sull'evoluzione umana, insomma, il paese sta già godendo di queste attività e continueremo in qualche modo a nutrirlo in tutti i modi possibili. E allora concludiamo ricordando però l'appuntamento più immediato, quello di questo pomeriggio. Dove si terrà l'incontro? Nell'aula magna delle scuole medie di Lozzorai. Ore 18.30. 18.30. Ok, quindi siete tutti invitati, lozzoresi e non, a questo importantissimo incontro col professor Matteo Lancini, che ringrazio e saluto. Grazie professore. Grazie a voi, grazie mille dell'ospitalità. E grazie anche a Giuseppe Virdis e Luca Sida di essere stati con noi, e in bocca al lupo per questa nuova attività. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie Carla.